Siamo arrivati alla data d'inizio del fondo di comunità che avevamo annunciato. È un'iniziativa molto importante in questo periodo. Noi riteniamo potrà essere utile anche per il futuro, quindi non dettata solo dall'emergenza del Covid. Fondo di comunità significa dare valore al fatto che una delle nostre principali caratteristiche è la capacità di fare squadra e di lavorare insieme. Il fondo di comunità che ha istruito l'assessore Barigazzi insieme a tutti gli altri protagonisti servirà ad attivare i contributi dei privati e dei comuni della città metropolitana per fare fronte ai bisogni nuovi che ha creato il Covid, ma anche in prospettiva a fare solidarietà. La comunicazione che stiamo lanciando con il fondo di comunità è molto bella, secondo me, è molto chiara: dare per fare. Noi dobbiamo fare, recuperare la capacità dei bolognesi che hanno espresso anche in questa emergenza Covid di versare contributi di solidarietà per gli altri. È molto importante. È molto importante la salvaguardata per il futuro. Partiamo con un fondo al quale come Comune di Bologna destiniamo 2 milioni di euro, seguiranno sulla base dei distretti i sociosanitari, i comuni dell'intera città metropolitana, e ci coordiniamo con i sindacati, con le associazioni economiche, con le associazioni del terzo settore. Noi non vogliamo sostituirci, essere competitivi nella raccolta fondi a quanto fanno tutte le associazioni di volontariato e sociali protagoniste della nostra città, ma vogliamo essere un punto di coordinamento al quale tutti possano partecipare, perché la raccolta fondi non si accavallino troppo le diverse iniziative, ma si concordi anche su cosa mirare rispetto ai bisogni che noi costantemente fotografiamo come amministrazioni pubbliche. Siamo i primi in Italia anche su questo, non posso che essere davvero soddisfatto di questo inizio. Seguiremo con la comunicazione, apriremo un IBAN, concorderemo sull'utilizzo dei fondi insieme ai sindaci e alle associazioni che hanno voluto partecipare. I sindacati faranno la loro parte, così come le associazioni economiche, così come il terzo settore, che sicuramente è il più predisposto a questo tipo di operatività. Un buon risultato, insomma.